Radio Italia Network, ma avete visto che ore sono? È arrivato il momento del programmino di Sir DJ Gigi D'Agostino. Amici ascoltatori di musica elettronica, ciao a tutti! Yeah. day, maybe, maybe the perfect night. I told myself tonight, wake up, fly. Di giorno la musica mi gira intorno. Te la faccio anche una rima. Lo squarenta mi tenta, il programmino mi tormenta, Gigi, volevo fare solo due saluti ai pivelli del forum tuo, quello lì, gigidagostino.com, che sono tutti regolari e li saluto tutti, li abbraccio forte. A presto, ciao raghi! Un disco finisce, l'altro fiorisce. Sideways, in a world I'll never understand. quanto penso. Radio Italia Network. RIM. Questa canzone mi piace dentro. Mi piace dentro. Mi piace dentro. Allora scusate, non ho più tempo. Never take one to my destiny of love, walking hand in hand and back. Hold me tight when I look into your eyes. I've been waiting for your love. Oh, your life just started, the destiny of love. vuoi dedicare una canzone? Non mi rompere il marrone. Preghiamo di attendere. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Oh Gigi, ciao, come stai? È un po' che non ci sentiamo. Volevo farti solo i complimenti che ho sentito su Italia Network. Il programmino tuo è regolare veramente. Cioè sei il capo. Più los 20 fa los 30, meno 20 fa los 10, più los 30 fa los 40, e il conto storna, scusi, no? Oh, ciao, ci vediamo domani, los 40, ciao. Dai, Fabiola. Cioè, Ragazzi, non ho parole. Grazie Gigi D'Agostino, ci rivediamo, ci risentiamo domani naturalmente. Ora pubblicità.